Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Il calcio di rigore, Bacca prova col destro secco, toccato da Costa ma non ce l'ha fatta a respingere. 1-0 Milan, Bacca, gol numero 17 per lui, con i fischi dei tifosi del Bologna imbestialiti, si trasformano poi in applausi ironici nei confronti della decisione dell'arbitro. Un video messaggio di Silvio Berlusconi, lei come ha recepito questo messaggio? Ma no, io non penso al futuro, non ho tempo per pensare al futuro, ogni giorno è il giorno più importante, sia che sia un allenamento sia che sia una partita, e i ragazzi mi ascoltano, mi seguono, e la speranza è quella di arrivare alla finale di Coppa Italia con qualcosa di più forte dentro di noi. Politano a porta vuota, Politano, il gol che permette al Sassuolo di riprendersi il sesto posto e continuare a sognare l'Europa. Lasciamo quindi lavorare Brocchi in serenità fino al 21 di maggio, poi ragioneremo in modo approfondito sul da farsi. Poi è arrivato il gol di Matteo Politano, classe 93, attaccante della Roma in prestito al Sassuolo, che rischia di scrivere una delle sentenze di questa domenica a 90 minuti dalla fine del campionato. Questi sono i verdetti, non ancora definitivi, alcuni. Sampdoria Udinese salve a quota 40 a quota 39. Palermo salvo se domenica prossima, o meglio molto probabilmente sabato prossimo, batte il Verona o comunque ottiene lo stesso risultato o meglio rispetto al Carpi che va a Udine. Perché il Palermo oggi ha pareggiato, il Carpi ha perso in casa contro la Lazio, Frosinone è aritmeticamente retrocesso. E poi c'è la volata Europa League, l'abbiamo sentito, Sassuolo 58, Milan 57, sabato, quasi certamente in contemporanea, ore 20:45, Sassuolo-Inter e Milan-Roma. Franco Ordine, ciao! Eccomi qua, buon pomeriggio. Franco Ordine, Carlo Genta. Ciao. Oh, io ciao. Non so se quel gol di Politano cambia qualcosa nella storia futura del Milan. Non lo so che sensazione avete. A me è sembrato anche abbastanza scontato, per quanto il Frosinone avesse colpito un palo. Ma insomma, se dobbiamo raccontare come stiamo raccontando, questo romanzo del Milan, non poteva che esserci questo finale oggi, non so. Ma Franco, guarda, io però sul fatto che fosse scontato onestamente ho qualche perplessità, nel senso che il Frosinone secondo me è stato bello scalognato. Sì, sì, non sto dicendo niente, non sto insinuando nulla. No, voglio dire che è che se racconti una tragedia ci deve essere il finale così. Sì, ma è evidente che il Milan se rimane fuori, a questo punto rimane fuori dall'Europa League, non rimane fuori oggi dall'Europa League, è rimasto fuori perché tra Carpi, Verona e Frosinone ha fatto la miseria di due punti. Questa è la spiegazione molto semplice e molto lineare, e quindi paga questo scotto che gli costerà qualche milione dell'Europa League. Purtroppo, rilette oggi le dichiarazioni di ieri sera prima della partita di Galliani a proposito di Ibrahimovic, probabilmente potrebbe anche costargli il mancato arrivo di Ibrahimovic. Sì, l'altro dato politico è che il Sassuolo in Europa League ci vuole andare come? Perché oggi ha lottato duro contro un Frosinone scalognato, come dici tu, però ha portato a casa una partita che dà al Sassuolo grandi probabilità di entrare per la prima volta nella sua storia in Europa. Anche perché l'Inter ormai è sicura del quarto posto, ha due giocatori squalificati sabato, io non credo che farà la partita della morte per battere il Sassuolo. Ma io non credo che questo Milan sia in grado di fermare una Roma che lotterà per il secondo posto, adesso anche senza parlare dei ragazzi dell'Inter. Punto è quello. È certo. Senti, ma secondo te quello che sta succedendo e che è successo anche oggi, ripeto, Matteo Politano, poi magari domani mattina scopriamo che può avere un peso nelle vicende invece societarie, che hanno vissuto nelle ultime 48 ore, insomma, anche qualcosa di sorprendente col messaggio di Berlusconi, l'apertura agli italiani che a me risulta non esistano, ma chi in Italia ha 1 miliardo di euro da mettere nel Milan e poi per gestirlo, non lo so. Ma intanto non è che non risultano a te, non risultano nemmeno a Berlusconi, tanto è vero che ha detto ogni suggerimento è benvenuto, quindi è un, diciamo tra virgolette, un appello, ma è secondo me anche la conclusione di una vecchia teoria che tra l'altro il presidente Berlusconi aveva già espresso in campagna elettorale regionale 2 anni fa in un'intervista a una televisione genovese, quando faceva l'esempio classico di Toir. 2 anni prima ci aveva visto lungo. Dice io devo affidarla nelle mani di uno che abbia la capacità, la forza imprenditoriale e la capacità economica di poter reggere, così come ha retto la famiglia Berlusconi per 30 anni, spendendo cifre molto consistenti. E allora voglio darla a queste condizioni e a queste. Quindi lui ipotizza nel suo immaginario, credo, una delle soluzioni, quella di darlo a uno sceicco, in sostanza. Perché se poi dopo 1 anno e mezzo di, o 2 anni di Toir deve pubblicamente dire io da solo non ce la faccio, ho bisogno di un socio, e l'Inter non è mai entrata in Champions eccetera, allora si capisce chiaramente qual è diciamo la preoccupazione. Beh, però Franco, non credo ce n'è anche un discorso di provenienza, no? Cioè che sia asiatico, no, è che i cinesi fin qui non hanno mai comprato e speso. I thailandesi hanno con appena vinto sceichi. Il campionato inglese, eh? Sì. Qui stiamo parlando non di provenienza, qui stiamo parlando di dimensioni finanziarie, economiche e di potenza economica dell'acquirente. Di questo stiamo parlando, non stiamo parlando d'altro, né di cinesi, giapponesi, thailandesi, sudamericani, eccetera. Stiamo parlando di questo, cioè sei in grado tu di fare quello che la mia famiglia ha fatto per 30 anni con il Milan? Questo è l'interrogativo. E allora si capisce che adesso, che tra l'altro la trattativa con i cinesi comunque continua, ma sul tavolo del presidente Berlusconi ad Arcore, le garanzie, le informazioni, l'identità, il dossier, per capirci, della nuova cordata non è mai ancora arrivato, perché sarà completato nei prossimi giorni e arriverà dopo che è stata ottenuta l'esclusiva, che tra l'altro è gratuita e prevede la possibilità di recesso. Di cambiare idea. Prima di chiudere, la domanda è se il Milan, che con oggi ha fatto un altro passo fuori dall'Europa, può cambiare nelle prossime ore, accelerare certi processi, non lo so, 800 24 00 24, chiediamo anche a casa qual è la sensazione. La domanda invece per Franco Ordine è se gli risulta, e a me risulta, che in realtà sul tavolo di Fininvest non ci sia solo la proposta dei cinesi, e anche per questo Berlusconi, che non ha grandissima voglia di cedere la maggioranza, magari prenda tempo. Io non so se esista, fosse il cielo, esistesse una cosa del genere, vorrebbe dire, vorrebbe dire che non avrebbe molto senso concedere ai cinesi l'esclusiva. Ma difatti io mi chiedo perché oggi Berlusconi tardi tanto a concedere una cosa che l'anno scorso ha firmato senza grossi problemi, l'esclusiva, quindi non sta vendendo il Milan oggi. Scusami, l'anno scorso l'esclusiva fu firmata senza penale per un motivo semplicissimo. Perché la valutazione che dava Mr. B, le condizioni che accettava Mr. B, gli accordi sulla governance che aveva sottoscritto Mr. B erano favorevolissimi, perché significava incassare 480 milioni e conservare la maggioranza del club, quindi delle azioni. Quindi questo, perciò Berlusconi aveva sorvolato sulla mancanza di penale e aveva costretto i suoi a firmare l'accordo con Mr. B, perché non era talmente tanto favorevole da consentirgli appunto un'operazione del genere. Insomma, io ho l'impressione che avremo altri colpi di scena in questo romanzo che è la vicenda societaria del Milan. Ti devo salutare che abbiamo il traffico, grazie. Saluti, Franco. Saluti. Grazie Franco Ordine. Mi fate sentire un attimo di Francesco, microfono di Sky Studio. E Francesco, bella la storia dell'Ester. No, lunga, è lunga. Traffico, torniamo. Tutti convocati. convocati. 800 24 00 24, vi aspettiamo fino alle 19, oppure 349 238, sms e whatsapp. Seguiamo anche la volata della Liga. In campo alle 17 tutte e tre le grandi che si stanno contendendo il titolo. Ci sono già due gol: il Barcellona avanti 1-0 con l'Espagnol, gol di Messi all'ottavo minuto, 1-0 anche l'Atletico Madrid in casa del Levante, gol di Fernando Torres dopo due minuti, 0-0 Real Madrid-Valencia in questo momento, Barcellona e Atletico Madrid. Atletico non molla niente, ancora eh? A braccetto, no, a quota 85 punti, ma lo ricordiamo, se arrivano pari il titolo lo vince il Barcellona. Sì. Andiamo a Genova, Marassi, dove la Samp ha perso malissimo. Il derby contro il Genoa 0-3. Il nostro Andrea Ferro. Ciao Andrea. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Forse ciao, sentite in sottofondo i clacson degli scooter dei tifosi rosso-blu che festeggiano questo derby vinto trionfalmente. Dall'altro lato c'è la delusione dei sampdoriani, che dovrebbero in realtà festeggiare una salvezza, per quello che si è visto anche oggi in campo è un risultato non da poco, però chiaramente perdere 3-0 in maniera così netta un derby fa male, e ci sono scorie che si sono accumulate nel corso dei mesi e delle settimane contro la società, contro il presidente Ferrero, e infatti davanti agli spogliatoi si sta radunando una folla di tifosi della Sampdoria che molto probabilmente, diciamo così, assedieranno, speriamo, per una manifestazione politico-simbolica nei confronti della società e non certo con altre intenzioni. Questo è l'auspicio, però c'è un po' di preoccupazione da parte delle forze di polizia che si sono schierate diciamo a protezione dell'accesso alla discesa che conduce agli spogliatoi. Chiaramente la folla deve ancora raggiungere dalla gradinata sud, deve ancora smaltire, diciamo così, i passaggi dalla gradinata sud verso la zona degli spogliatoi, dove presumibilmente a breve si ingrosserà e quindi inizierà, diciamo così, questa manifestazione di contestazione nei confronti, sì, quindi, della squadra. Sarà un pomeriggio, una serata movimentata. Genova Sampdoria oggi disastrosa. Non è mai esistita questo finale di stagione. Davvero è stato uno dei più brutti che io ricordi con la Sampdoria. Anche un fallimento di Montella. Sì, Montella che con oggi ha perso la 13ª partita su 25 sulla panchina della Sampdoria. A proposito di papabili per la prossima panchina del Milan, oggi abbiamo visto Ferrero giocare con un drone, Andrea. Ma questa è una Sampdoria che fa tutto meno che giocare a pallone, mi pare di capire. Questo chiaramente irrita non poco i tifosi della Sampdoria, che chiaramente tengono al derby in una dimensione, diciamo così, come quella genovese. Il derby, i risultati nei derby contano e possono valere una stagione, ma d'altronde la stagione della Sampdoria era iniziata in maniera disgraziata, ricorderete benissimo lo 0-4 di luglio, e praticamente quando le cose iniziano così poi è difficile, a meno che non si hanno mezzi e non si hanno, diciamo così, chance per potersi rimettere in carreggiata, è difficile poi orientare, sì, in maniera diversa una stagione. Ricordiamoci che per la Sampdoria l'obiettivo dell'Europa League era poi praticamente un obiettivo estremamente importante e che poteva dare veramente un senso alla stagione, invece dopo quella sconfitta praticamente poi è iniziata una stagione in campionato che Zenga, che inizialmente sì, parte anche se bene, annotiamo poi oggi che la Samp si salva con i punti di Zenga, 16 punti nelle prime Zenga, 12 ma giornate, ma questa è una squadra sbagliata, è una storia sbagliata, meglio. Io credo sia anche una storia finita con l'attuale proprietà, con l'attuale presidenza. Io credo che non si possa prescindere da un cambio della guardia. Andrebbe sottolineata anche però la grande prestazione del Genoa. Aspetta che lo facciamo, che c'è Gasperini ai microfoni di Premium, lo sentiamo? Proviamo a prendere Gasperini. Il merito vostro, lei ha bloccato tutta la qualità, perché Montella voleva qualità e non l'ha mai avuta in partita l'aggressività del Genoa vinto. Io credo di pensare che è molto merito del nostro Genoa. C'è stato anche altre partite, anche con la Roma abbiamo fatto un'ottima gara. Ci è mancato il risultato per poco, ma al momento che stiamo bene, abbiamo fiducia, abbiamo entusiasmo, vogliamo finire bene questo campionato che è stato difficile, non possiamo finire anche in posizioni insperate. Senta, questo Gasperini che oggi è stato molto probabilmente in panchina per l'ultimo derby da allenatore del Genoa. Allora chiedo ad Andrea Ferro, vediamo se Andrea la situazione si normalizza a Marassi o che cosa ci riserva il tardo pomeriggio. Allora, la folla nel frattempo si è ingrossata, devo dire non c'è un'animosità particolare. C'è frustrazione. Frustrazione, rassegnazione, che mi paiono i sentimenti prevalenti rispetto a reazioni più rabbiose. C'era stato un tam tam attraverso i social nel corso della partita che annunciava in realtà una contestazione più vibrante. Al momento non c'è traccia emotiva, diciamo così, di questo scenario, però chiaramente è ancora presto per dare, diciamo così, una sensazione definitiva di quello che può accadere. Quindi io anche questo distacco non è una bella cosa. Aspetta Andrea, allora eventualmente ci aggiorniamo, quindi se cambia lo scenario. Saluto Fabrizio Bocca, ciao Fabrizio da Repubblica. Ciao. Mi fate sentire ciao. Ballardini, microfoni di Sky. Ballardini che oggi ha fatto un passo importante verso la salvezza e oggi il Palermo è padrone del suo destino, vincendo l'ultima contro il Verona. Per il mio periodo, quindi da quando io sono arrivato c'è stata la massima disponibilità, la squadra si è davvero compattata e insieme da squadra riusciamo ad essere squadra in difesa e ad essere squadra quando attacchiamo. Alessandro. Pensa Fabrizio che il Palermo dei mille allenatori potrebbe salvarsi. La storia più paradossale storia più paradossale del calcio italiano. No, poi c'è anche l'altro dato politico per cui oggi Lotito ha di fatto mandato in B il Carpi e nella stessa giornata in cui retrocede il Frosinone. Quindi doppia festa per i Lotito Boys. Esatto, sì. Beh, il Carpi devo dire un po' anche con quei rigori sbagliati un po' alla Beccaloni. Sì, dopo lo raccontiamo questa vicenda. Secondo me, guarda, sia il Frosinone che il Carpi, comunque vada, il Carpi c'è ancora delle possibilità, insomma, sia pure solo matematiche, ricordiamoci sempre che ogni tanto qualcosa all'ultima giornata succede. Sia il Carpi che il Frosinone hanno fatto comunque due grandissime annate, insomma, sono due squadre veramente piccole, sono resistite fino all'ultima e alla penultima giornata, quindi tanto di cappello. Carpi che per salvarsi però deve sperare che nell'ultima Palermo, il Palermo in casa oppure pareggi e il Carpi vinca a Udine. Intanto ha segnato anche il Real Madrid 1-0 contro il Valencia, quindi le tre grandi di Spagna stanno tutte vincendo. Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Sì, da sottolineare invece una cosa bella della domenica, non capita spesso, che il Frosinone oggi retrocesso perdendo in casa con il Sassuolo è stato acclamato dal suo pubblico. Per una volta abbiamo visto i giocatori andare verso i tifosi ma per un ideale abbraccio, quindi a sottolineare il fatto che Carpi e Frosinone comunque vada hanno fatto una stagione totalmente dignitosa. Assolutamente sì, lo dicevo prima, assolutamente straordinaria. Poi devo dire che il Frosinone, non, ad esempio, per dirti, anche nei momenti di difficoltà non ha cambiato l'allenatore, è rimasto insomma una squadra sempre molto dignitosa. Mm-hmm. Ha sempre creduto in se stesso, insomma, ci ha provato. Vabbè, era una squadra veramente piccola e gli è andata così, insomma. Va bene così, magari vogliamo anche dire che va bene anche che la Fiorentina, che non aveva stimoli, se l'è giocata fino al 92esimo con il Palermo, che il Sassuolo ha giocato alla morte ma aveva stimoli col Frosinone, che la Lazio senza stimoli ha vinto Modena contro il Carpi. No, dico, tante volte noi raccontiamo insomma di finale di stagione da mettersi le mani nei capelli. C'è un po' di cambio di tendenza in questo. Effettivamente negli ultimi 2-3 anni c'è stato talmente tanto. Insomma, si è detto tanto contro questo vizio tutto italiano, le ultime partite praticamente di non giocarle o di lasciarle andare a seconda di quello che succedeva. In quasi tutte hanno giocato alla morte fino all'ultima partita, tranne qualche squadra che una volta salvata si è veramente lasciata andare, insomma. Quello purtroppo in qualche caso è accaduto, ma insomma, purtroppo quello fa parte un po' del vizio italiano di giocare soltanto quando ci sono i punti in classifica e lasciare andare. Il Bologna poteva fare un campionato straordinario e alla fine ha fatto un campionato poco, insomma, normale, ecco, sì. una salvezza normale, poteva fare di più per quello che aveva fatto vedere, insomma. Una vittoria però nelle ultime 12, esatto, sì. Però insomma, per dire Chievo, Sassuolo. Chievo stagione pazzesca, 49 punti nonostante la sconfitta di oggi preventivabile con la Roma, ma anche lo stesso Genoa chiuderà con una classifica totalmente dignitosa. Genoa decimo, sì. Ma, non capisco perché il Genoa rinunci proprio così, così facilmente a Gasperini. Credo che prenderanno Juric, ho sentito. Sì, prenderanno Juric. Ma con Gasperini una storia che mi sembra un po' rovinata anche per i rapporti con i tifosi, Fabrizio. Eppure ha fatto delle cose bellissime. Poi non dimentichiamo che anche sul Genoa ci sono pesanti ombre sul futuro, ci sono incertezze sul futuro, quindi sono anche queste storie tutte da scrivere. E poi andrà, insomma, non prenderà una grandissima squadra, perché probabilmente andrà a finire o all'Atalanta, insomma, o, ecco, una squadra del genere. E non avrà una grande squadra Gasperini, e forse non l'ho sentito, ad esempio, per dirti, prendere mai in considerazione tra i possibili. Ho sentito tutti i nomi dei CT tranne quello di Gasperini. Sì, credo paghi quelle tre partite sulla panchina dell'Inter, disastrose. Ancora. Insomma, a livello di etichetta è un'etichetta difficile da togliersi, Fabrizio. Inutile girarci intorno, per gli allenatori è così. Anno fa è andato male. Insomma, ma a quanti è capito? Allora, scusa, ma Montella quest'anno è andato decisamente peggio, eppure però vedo che gli si sta proponendo il Milan. Montella quest'anno è arrivato che ha preso una Sampdoria che mi sembra fosse... Sì, fosse 16 punti in 12 partite, era ampiamente salva, diciamo. Adesso è... Ma difatti l'abbiamo detto, la Samp si salva con i punti di Zenga, che era odiatissimo dai tifosi della Sampdoria. Se oggi possono festeggiare quel poco che possono festeggiare, lo possono fare per... Intanto ha pareggiato il Levante contro l'Atletico Madrid, prego. È il giovane allenatore in carriera cui bisogna proporre, per carità, è bravissimo Montella, ogni tanto ci innamoriamo tutti noi. Qualsiasi squadra lo prenderei, però insomma Montella vedo che ha offerto eccetera. Gasperini no, però va bene così. È uno dei paradossi del nostro calcio. Grazie Fabrizio. Ciao. Fabrizio Bocca da Repubblica. 800 24 00 24. Prima della pausa prendiamo Marco dalla provincia di Caserta. Marco. Ciao. Eccoci. Ciao. Niente, volevo parlare del Milan. Sì. Praticamente sono tifoso del Milan e sinceramente non ci capisco praticamente niente. Perché tra Berlusconi, che secondo me lo vogliamo dire che sei rincoglionito, scusa il termine. Sì, ci sono anche altri modi per esprimere un amici concetto. Miei, se non sei rincoglionito è sulla strada. Comunque poi la famiglia che non si sa, e cioè tutti quanti non se ne importa assolutamente niente di questo giocattolo. Ma forse Berlusconi è l'unico a cui importa, il dramma è quello. Sono sicuro, perché guarda, allora tu dici vuoi vendere o non vuoi vendere, però almeno nel frattempo che aspetti un'offerta che secondo te deve essere adeguata, che può arrivare ora o tra 5 anni, tu nel frattempo incominci a rinnovare la dirigenza. Invece a me mi sembra che dice tanto io devo vendere, non si sa quando, non si sa chi, e allora facciamo andare tutto così, rimaniamo Gagliani, rimaniamo la dirigenza vecchia, quei pochi buoni che ci stanno tipo Braide vengono fatti fuori. Quindi ecco, c'è un raziocinio secondo te? Ora tu sei dell'ambiente. No, è evidente che ci sono tanti errori, ma stiamo commentando un qualcosa che non esiste, perché assolutamente una società che è stata modello fino al 2006, che si rincoglionisce in questo modo. Sì, però Marco, c'è anche una difficoltà estrema dal punto di vista economico. Quando Berlusconi dice ho speso 152 milioni solo nell'ultimo anno, dice assolutamente la verità. Ha speso oltre 350 milioni in 5 anni per ridimensionare, ma perché il calcio oggi è così? Sì, o tu finisci in mano a qualche sceicco? La sensazione è che al di là delle parole non abbia ancora preso in maniera definitiva la decisione di cedere il club. La sensazione è questa. Un saluto affettuoso a tutti i tifosi, ma soprattutto a questo... Sì, Marco. Marco, che mi ha definito rincoglionito. Sì. E io per questo lo ringrazio. Perché si ferma qui. Perché io rincoglionito. No. Non sono. Ecco, bravo. Torniamo subito a 800 24 00 24. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Ho qualche dubbio. E bidi dubbi sì, e bidi dubbi no, e bidi dubbi mamma, e tanti ne avrò. Chi dubbi non ne ha, chissà cosa farà. Dimmi, tu quanti dubbi hai? se la Juve rimane inarrivabile, Roma e Napoli sono già più forti dell'Inter, quindi si rinforzeranno, che cosa ti lascia supporre che l'anno prossimo l'Inter potrà lottare, non dico ad armi pari, però in maniera più concreta? Con la Juve no, se i valori sono questi, con la Juve no, credo che nessuno possa lottare con la Juve in questo momento, se le squadre non si rinforzano è abbastanza difficile. Non è più l'Inter del 2006 fino al 2010, è un'Inter totalmente diversa, con dei giocatori stiamo lavorando, le squadre non si costruiscono con la bacchetta magica. Non temi che qualcuno di loro, stanco di non giocare la Champions, possa chiedere di andare via alla lunga, come Handanovic, che poco fa ha detto che la cosa gli comincia a pesare? Se un giocatore ha questa volontà, lo accontenteremo, non è un grande problema questo qua. Ecco, in vista del futuro, quando farete un punto della situazione col presidente, se non l'avete già fatto, sei più speranzoso o un po' più preoccupato, magari in vista anche la situazione economica del club? No, questo non lo so, poi quando parleremo col presidente vedremo, cercheremo di rinforzare la squadra, e comunque la migliore stagione degli ultimi 5 anni. Oh, questo è il riassunto della serata di ieri a San Siro, con i tanti dubbi che sparsi qua e là da Mancini, lo abbiamo grande sentito. Depressione, grande depressione. Anche esagerata, secondo me. Marco Barzaghi, ciao. Buon pomeriggio, meno male che una domanda mia l'avete messa. Hai visto? No, stavo per appena. Certo, ma abbiamo, posso dire che una volta che ne hai fatta una. Marco, aspetta un attimo, per la cronaca, poi ne parleremo. Sì. Kittel è andata a beccarsi il secondo bacio consecutivo da Tess sul traguardo di Arnhem, seconda tappa del Giro d'Italia. Quindi Marcel Kittel, il Giro continua a parlare tedesco e olandese. Tedesco e olandese. Marco, insomma, al di là dei tanti dubbi sparsi qua e là, tu hai capito qual è la temperatura oggi dell'Inter? Toir oggi ha ribadito, l'anno prossimo si dovrà lavorare ancora più duramente, poi insomma. Ma io penso che Mancini stia facendo un po' il suo gioco, il suo solito gioco, nel senso che quelli che qualcuno ha chiamato dubbi in realtà sono delle richieste velate, nel senso che vuol far capire, insomma, che la società non deve vendere i giocatori più forti, ma deve ripartire da quello e essere molto brava magari a fare plusvalenze con, non con i big, ma magari con, non so, Brozovic, Murillo, forse anche Handanovic potrebbe essere un'occasione, riuscire a venderla una decina di milioni adesso, e in più cercare di rinforzare la squadra con un paio di campioni che possono alzare il livello qualitativo. Questo mi sembra che sia il messaggio di Mancini, più che un dubbio. Vuole garanzie precise, non so se sia un mettere le mani avanti, però comunque io lo interpreto così. Poi i dubbi invece io più che altro ce l'ho sulla questione societaria, su questa frenata improvvisa dei cinesi e anche su quello che sta cercando o ha in testa di fare Moratti, che ricordiamo che ha anche l'opzione per riprendersi tutta l'Inter entro novembre, quindi non solo di mollare e fare un passo indietro definitivo, ma anche quella di riprendersi tutto, e cambierebbero anche gli scenari. Sì, sarebbe uno scenario clamoroso. Intanto raddoppio del Real Madrid contro il Valencia, 42esimo gol di Benzema. Ciao Pierre. Come va? Bene. Ciao, tu hai capito cosa fa Mancini? Sì, c'è Marco Barzaghi, quello che ha fatto una domanda ieri, una domanda, intendo quella fatta bene, quindi noi l'abbiamo chiamato oggi, Marco, no? Giusto. Il bel Barzaghi. Due Barzaghi, no? Uno lavora per Sky, l'altro lavora per Sì, ma sono gemelli, quindi sono bravi tutti e due. Sì. Barzaghino è quello frizzante, Barzaghi, quello nostro, è quello quello più serio. Matteo sì. Mi perdonerà, siamo amici pure con Matteo, però insomma, Barzaghi quindi questo è importante. Devo una cena, Pier, grazie. Sì, no, ma è la verità. Tu hai capito, Pier, cosa fa Mancini? Non ho capito cosa fa Mancini. A me la sensazione è che lui si sia tolto un sassolino, cioè che abbia comunque detto quello che anche lui pensa. E tutto sommato, insomma, se noi guardiamo la stagione, l'Inter è arrivata quarta. Io, così come non ero entusiasta all'inizio, ed ero anche abbastanza perplesso sul primo posto dell'Inter, perché non dimentico e non rinnego tutte le perplessità che avevo su questa squadra per andare in testa alla classifica. Devo dire che il quarto posto è un risultato doso, non è un risultato positivo, cioè non ti dà un vantaggio, non ti dà una qualificazione in Champions, quindi qualcosa di tangibile, di concreto per dire che hai fatto un gran campionato, però non è un campionato brutto quello del quarto posto, perché No, però se torniamo all'inizio della stagione e per discorsi che abbiamo fatto per lungo tempo, si è detto tantissime volte l'Inter in questa stagione fa all-in, cioè si gioca tutto in questa stagione, compresa una campagna acquisti sontuosa che peraltro in larga parte deve essere ancora pagata, con l'obbligo di arrivare in Champions League per salvare la situazione. E in Champions League non c'è arrivata, dunque secondo me i dubbi pesanti sono quelli societari. E forse allora l'all-in era sbagliato, se veramente sarà all-in allora l'errore è stato fatto, perché io, se ti devo dire la verità, però penso che questa cosa, l'Inter quarta, non è un'assurdità, non è un fracasso come dicono in Spagna, non è un fallimento, questa è una squadra da quarto posto. Is not an assurdity, but Roberto Mancini and the team is strong. Strong team, strong character. È da due settimane, Pier, che non riusciamo a liberarci del presidente. Lo teniamo qui in un angolo. Può andare a Giacarta, presidente, si è addormentato. L'hai visto che ieri si è addormentato, a un certo punto. Sì. Io sto team strong. Fammi fare un'ultima domanda a Marco Bazzani. No, fammi chiedere a Ibra cosa pensa. Ibra, cosa stai pensando? Cosa? Ibra, cosa stai pensando? Tu a me non devi chiedere questo, va bene. Lui non pensa. Why don't you torneresti all'Inter? Why don't? Would you just come back to Inter? Io sono numero uno, va bene. Ho giocato in Barcellona e gioco PSG, va bene. Tu Cazzo vieni, tu giornalista, guarda. Vieni qua a parlare. Come on, pardon. Lo invitiamo domenica prossima. Mi fate fare l'ultima domanda a proposito di Ibra, a Marco Barzaghi, se è una suggestione o è qualcosa di che invece può diventare una trattativa, secondo me è folle, però. Ma la escludo al 100%, anche perché qua non si sa neanche se tornasse Moratti non penso che l'Inter avrebbe mai la possibilità di pagare l'ingaggio di Ibrahimovic, assolutamente. Poi sì. Non penso neanche che Ibrahimovic venga all'Inter a giocare Europa League. Le strade sono infinite. Aspettate, c'è traffico. Saluto Marco Barzaghi. Ciao Marco. Ciao Marco. Un abbraccio a tutti. 800 24 00 24. Adesso lo mettiamo a letto, tranquilli. Adesso lo mettiamo a letto. Traffico. Voto l'ho già detto. Io non... cioè, è una questione di voti. Ho sempre preso voti bassi anche a scuola, quindi il voto è abbastanza basso. Tutti convocati. Tutti convocati. Stato un amico via WhatsApp 349-238-6666 ha chiesto se Simeone viene con l'Europa League all'Inter. A proposito di suggestioni, saluto Paolo Bonolis. Ciao Paolo. Ciao ragazzi. Ciao Paolo. A tutti. Come sta Paolino? Bene, che ancora vivo, te? Ma se sei in vacanza? Beh, sto cominciando a farmi l'appetito. Io sono uno stalker, lo sai? Lo so, sei una piaga. Più che uno stalker è l'eufemismo, sei una piaga. Voglio bene ugualmente. Lo so, anch'io. Questo a prescindere. Paolo, posso dire una cosa? Lui è, vabbè, oltre ad essere un talento, vabbè, non lo devo dire io, ma è veramente meraviglioso, anche off records, come dicono i giornalisti, proprio meraviglioso, cioè uno che potrebbe tirarsela perché nella sua vita ha fatto dal punto di vista televisivo tutto o quasi tutto. Se ti manca qualcosa? No. Lo so, il TG5 devo fare, ma non, ma beh, non ti manca Tiki Taka, per esempio, è la persona, Tiki Taka, se vuoi, senza problemi, è la persona chiusa questa parentesi. Ti sento malissimo, sì, aspetta, mi avvicino a una finestra, vedo ma non sei l'unico. No, scherzo, adesso sistemiamo il collegamento di Pier. Paolo, vai in vacanza tranquillo o preoccupato per il futuro di Mancini, o magari fai parte di quegli interisti che è meglio se saluta e se ne va, visto che per tanti interisti questo quarto posto è una grande delusione. Ma secondo me l'hanno fatta un po' troppo grossa questa situazione, nel senso che il mister aveva dichiarato fin dall'inizio del campionato che c'erano tre squadre superiori a noi. Avremmo voluto lottare per il terzo posto, siamo arrivati quarti, cioè non è che lotti per il terzo, arrivi nono o dodicesimo, sei arrivato quarto. Più che altro quello che ha creato un po' di suggestione negativa è stata quella partenza, una partenza sicuramente non adatta alle effettive possibilità dell'Inter, però poi insomma le cose a casa le hanno portate, i risultati ci stavano, quindi andava bene anche così. Era forse un po' troppo per quello che nella lunga gittata sarebbe stato poi il percorso dell'Inter. Ma insomma, alla fine della fiera sono arrivati quarti. L'Inter è una squadra che si sta costruendo, è una squadra che ha tantissimi, anche ottimi giocatori, ma forse distribuiti male ruolo per ruolo. Ci sono delle quantità eccessive in taluni ruoli e ci sono delle assenze assolute in altri. Sì, cosa che chiama almeno a una responsabilità di Mancini, visto che tutti sappiamo che Mancini di questo mercato è stato garante. Ha avuto le chiavi del, esatto, del chiavi. Mercato. Sì, ha avuto le chiavi di questo mercato, ma al contempo tu puoi andare al mercato quanto vuoi, se sullo scaffale quel prodotto che cerchi non c'è, non te lo puoi comprare. Poi è ovvio che quando non ci sono dei risultati positivi c'è una condivisione di responsabilità. Mancini avrà sicuramente anche le sue, forse. Ma tu che voto gli dai a Mancini, non alla stagione dell'Inter, a Mancini? Guarda, a Mancini. Quest'anno, con tutta sincerità, non do un voto alto. Io credo che il voto se lo sia dato da solo e sia più che corretto. È un 6. È un 6 per aver portato l'Inter a combattere per un certo lasso di tempo, per un traguardo superiore alle sue possibilità, e alla fine per aver non conquistato quel traguardo per un pelo, insomma, perché è arrivato quarto invece che terzo. Paolo, ci sono anche degli aspetti. Volevo negativi. Chiedere una cosa, Paolo, ma l'interista cova sempre il sogno confessabile o meno di un ritorno di Massimo Moratti? Ah, su questo non c'è dubbio. Sì. Ma non solamente il ritorno di Massimo Moratti, che ha significato storia, di storia importante con la famiglia Moratti, storia importante dell'Internazionale Football Club, ma anche perché diventa un'unica testa decisionale in chiave di mercato, in chiave diplomatica. È una direzione. Adesso l'Inter ha due direzioni, una che si profila un po' assente come quella del presidente, ma che comunque è nel cuore di tutti, l'altra con Toire, mosse, non si sa se arrivano anche i cinesi, inizia a diventare un cerbero e quando sono troppe capocce poi metterle una d'accordo all'altra diventa complicato. Sì. Io mi auguro che, quindi sì, senza dubbio, credo che non è un sogno sotterraneo, credo sia un sogno abbastanza palese, ma è anche vero che non puoi chiedere ad un uomo di investire una fortuna di famiglia quando questa famiglia ha altre necessità economiche e aziende da seguire. Insomma. Io credo, Pier, sarebbe paradossale. È paradossale questa nostalgia di Moratti, che è andato via fondamentalmente perché si è reso conto che non era più in grado di tenere l'Inter, certo, a certi livelli. Pier. Sì, è illogica, ma è bellissima. È illogica, ma è romantica. Cioè, è chiaro che Moratti rappresenta l'interismo in una maniera totale, assoluta, e poi gli ultimi veri successi dell'Inter sono arrivati con Moratti, quindi io capisco perfettamente questo tipo di suggestione. È evidente che avere due direttrici che in qualche modo, in qualche momento anche confliggono, possa essere un problema. Quindi sicuramente mi ricordo che l'ho detto anche in passato, che insomma un Moratti parlante, per esempio, che ha la maggioranza, rischia di essere un problema, perché rischia semplicemente di dire delle cose anche in assoluta buona fede che però finiscono per condizionare per l'ambiente, per fare ombra o per condizionare l'ambiente. Quindi io credo che Mancini meriti 6,5, credo che la stagione dell'Inter sia una discreta stagione, e sicuramente il grande equivoco è stata la partenza certo. È stata talmente abbagliante che poi alla fine, però sa, questo quarto posto è quello che l'Inter oggi rappresenta. Io all'inizio della stagione non ero così sicuro che l'Inter fosse nettamente superiore al Milan, ma oggi, ti ripeto, esattamente quello che diceva il mister all'inizio campionato, lo ha ripetuto 30 volte: ci sono tre squadre che sono superiori a noi come rose e come qualità, e così si è verificato. Quindi alla fine della fiera Mancini non è che è andato a vendere qualcosa che non esisteva ai tifosi, ha detto proveremo a lottare per questo terzo posto, poi non c'è riuscito ma è arrivato quarto. Cioè non è che se io do a Pardo l'obiettivo di dover vincere i 100 metri piani e poi non li vince dico che è una pippa, cioè ci sono altri, certo, più veloci, insomma. Senti, ma Darwin è un po' come Totti, sì, cioè non è che posso determinare io l'obiettivo, no, ci sono dei valori, sì, c'è anche che se la Roma ti regala 10 punti magari tu puoi sognare. Però purtroppo, certo, c'è anche il GR, purtroppo, nel sì, senso, ma io sono che... qua che di Ciao Darwin e di Totti. Ma sì. Esiste un rapporto fra Ciao Darwin e Totti, è un weekend di grandi bagni di folla, di applausi del pubblico. Senti, Pardo, io sono qui che aspetto da 3 ore. Sì, allora, dopo 5 GR giornate, facciamo Sinisa. Avete fatto passare Bonolis prima di Paolo, me. Paolo, prego. Bonolis, cioè, ci manca. Non so chi sia il signore, mi dispiace, per me posta lui tutta la sera e non è un problema. No, è il nostro Sinisa Mihajlovic. Ah, ma sì, io sono qua che aspetto. Allora, fallo aspettare. Io sono qua che aspetto da 5 giornate, arriva Bonolis che interista mi passa davanti. Questo non è cosa vera. Sì, non... ok, va bene. Ciao Giovanotto e complimenti, lo fai molto bene. Ciao Giovanotto, sei eccezionale. Se non fossi interista saresti eccezionale. Allora, saluto Paolo Bonolis, se lo ringrazio. Ciao, buon lavoro. Pier resta con noi invece anche dopo il GR. 800 24 00 24, torniamo subito. Ho contratto, ma il mercato non si può mai sapere mai. Qualche pensierino, ti dispiace non giocare alla Champions? Ma quello è il mio obiettivo e mi dispiace, sì. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Tutti convocati. A me piacerebbe in generale, soprattutto quando si vengono da brutte sconfitte, di avere una strategia comune e parlarne prima e discuterne. Io non ho visto ho visto un Genoa superiore sul lato del temperamento, quindi complimenti a loro, bisogna sapere anche perdere. Io non mi chiedo scusa ai tifosi se è possibile, ma non mi piace fare esternazioni pro tifosi. Io non mi vergogno perché così come la squadra lavoriamo 18 ore al giorno. Io con il mio staff mettiamo il massimo impegno, poi se gli altri sono più bravi bisogna fare i complimenti. Detto questo, la partita l'ho vista equilibrata sul piano tattico e tecnico, dove le due squadre hanno avuto più o meno le stesse occasioni. Il Genoa è stato superiore sul lato temperamentale, ma queste sono caratteristiche che appartengono al Genoa più che alla Samp. Oh, questo Montella, oggi pensa se non avevano avuto le stesse occasioni con chi ce l'aveva. Piuttosto ho trovato la soluzione per Balotelli. Ma però se vuoi ti dico con chi ce l'aveva. Deve andare, sì, adesso me lo dici, però ci pensavo prima. Visto quello che ha fatto anche oggi Suso, sì, visto quello che ha fatto l'anno scorso Niang, prendere Balotelli e mandarlo subito al Genoa. Potrebbe essere una soluzione. Oh, Montella, carissimo Pierre. Se hai sentito insomma queste sue parole sulla strategia comunicativa che la Samp doveva tenere per spiegare questo derby, ce l'aveva con il direttore sportivo della Sampdoria Osti, cioè non con i giocatori, no, Osti, che 5 minuti prima aveva detto: la contestazione dei tifosi è giustissima, la società chiede scusa per la partita indegna che non è stata giocata da parte della Samp, ci salviamo grazie ad altri risultati su altri campi e questa è la macchia finale in questo campionato fallimentare della Sampdoria. Questo è Ferrero. Questo non è Ferrero, questo è Osti. Sì, ma questo è Ferrero. Sì, questo è quello che pensa Ferrero. Sì. E Osti la... Io non so se Montella la pensa uguale o se pensa chissà cosa. Beh, io ti dico la verità, la Samp, adesso io voglio bene a Vincenzo Montella e rimane la sua assoluta qualità, secondo me, fino a prova contraria, di allenatore e di persona indiscutibile. Però, insomma, quest'anno in una stagione in cui si è inserito, stagione in corso, quindi con tutti gli alibi del caso, io mi aspettavo di più da lui. Sì, le cose l'hanno dette, insomma. Decisamente. Poi ci poniamo anche la domanda se lui sia allenatore giusto per il Milan, arrivandoci con questa stagione. Ma magari sì, perché poi in realtà lui quest'anno ha dimostrato di far male una cosa, che è l'arrivo in corsa in una squadra comunque modesta, in una squadra comunque media. Cioè andare l'anno prossimo eventualmente chiamato dal Milan con la possibilità di impostare la stagione è un altro sport, sì, completamente un'altra categoria, sì, no? Sì. E quindi assomiglia di più a quello che lui ha fatto a Firenze, sì, però non ci arriva nel momento migliore della sua carriera, no, è un paradosso, ed è questo un paradosso. Paradosso è anche il segno di una debolezza del Milan, credo. Aspetta, perché andiamo a Marassi dal nostro Andrea Ferro per farci raccontare come prosegue questa serata post derby. Andrea, Sì, Giovanni, di nuovo buonasera da Corso De Stefanes. Vi parlo dall'uscita, diciamo così, degli spogliatoi. La folla che in qualche modo aveva assediato fino a pochi minuti fa appunto l'accesso agli spogliatoi ha perso consistenza, soprattutto, e questo è un dettaglio importante sotto il profilo dell'ordine pubblico, la frangia più calda dei tifosi della Sampdoria si è in qualche modo dispersa per le vie laterali, evitando in qualche modo di arrivare a costruire poi un muro da fronteggiare con la polizia quando poi si tratterà per il pullman della Sampdoria di lasciare appunto l'impianto e prendere strada verso il casello. A questo punto la situazione, ripeto, evolge in termini più tranquilli rispetto a quanto si era temuto nei primi minuti successivi alla gara. Va detto che il pullman del Genoa è uscito senza nessun problema, ad attenderlo all'esterno c'era anche un drappello di tifosi rossoblu che ha un po' sfidato, diciamo così, il numero superiore dei tifosi sampdoriani e che ha salutato chiaramente con grande gioia il passaggio degli 11 di Gasperini, che hanno indubbiamente stravinto questo derby e dato un senso, come dicevamo anche nel precedente collegamento, ad una stagione che a un certo punto sembrava declinare in un ambito problematico. Vi ricorderete anche le contestazioni nei confronti di Gasperini, anche su questo fronte è stato un anno piuttosto tormentato, ma questi 46 punti in classifica, questo perentorio 3-0 contro la Samp dà un senso alla stagione per una squadra oggettivamente da centro classifica. Sì. Grazie Andrea. Ciao Andrea. Grazie, ciao Carlo, ciao Giovanni. Grazie ciao. Andrea Ferro. C'è stato un momento, Pier, in cui la Genova del calcio ha temuto anche di retrocedere in massa. Intanto due aggiornamenti sulla Liga. Siamo intorno all'ora di gioco. Real Madrid 3-1 sul Valencia, appena segnato la doppietta Cristiano Ronaldo. 5 minuti fa invece c'era stato il gol di Rodrigo per il 2-1. Vince 2-0 il Barcellona sulle Spagnole. Il raddoppio di Suarez, ancora dopo fermo sull'1-1 Levante Atletico Madrid. Ovviamente finale di campionato, grandi firme. Gol di Messi per il Barcellona. Messi, Suarez e doppietta di Cristiano Ronaldo. In questo momento la classifica: Barcellona 88 punti, Real Madrid 87, Atletico Madrid 86. Tornando a Montella, Pier, è anche un segno di debolezza del Milan. Mai il Milan in passato sarebbe andato a prendere un allenatore con il curriculum di quest'anno di Montella. Sicuramente è un segno di debolezza del Milan, però insomma adesso non è che il Milan abbia scritto sui muri a caratteri cubitali, come diceva Giovanotti, che deve prendere Montella. Montella è una delle ipotesi, non è che adesso sia un segno di debolezza del Milan del fatto che la Samp abbia perso il derby 3-0. Montella è un allenatore potenziale, interessante per la nazionale, interessante per tanti club. Sicuramente esce un po' indebolito, questo non ci sono grandi dubbi, esce un po' indebolito dalla situazione che si è creata quest'anno, non ci sono grandi dubbi. Questo, sì, però non insomma, si può mettere in discussione comunque il valore assoluto di Montella, cioè la stagione storta può capitare a tutti. Sto pensando a Ranieri con la Grecia prima di questa esperienza pazzesca con l'Ester, Ranieri. Nella carriera, nella vita di un allenatore possono capitare, anche dei più bravi possono capitare a rovesci di questo tipo. Assolutamente, e poi soprattutto la situazione della Samp di quest'anno è molto diversa rispetto a un'eventuale chiamata in corsa dal Milan, nel senso che quest'anno è stata una soluzione presa, diciamo così, per tappare una falla e per liberarsi anche da un vincolo contrattuale che aveva in una squadra che sembrava andasse bene. Però ecco, io quello che dico, io sono molto laico in questo, cioè io stimo Montella, però dico che Montella quest'anno ha fallito, cioè c'è molto da dire. Ci sono molte discussioni, eh? No, appunto, quindi non è che questo toglie niente alla... La mia perplessità, Pier, è che tipo di segnale è eventualmente nei confronti dei tifosi del Milan, che lo abbiamo sentito, sono inferociti con Berlusconi, con Gagliani, con tutti. No, se dovesse arrivare dopo, insomma, anche perché la rosa dei papabili allenatori per il Milan della prossima stagione perde petali. Ieri abbiamo sentito Gagliani fare complimenti a Giampaolo, sappiamo che Di Francesco alla fine si è stufato di aspettare nella confusione. Il nome di Montella è comunque un nome che potrebbe anche avere un suo fascino, poi esce da questa metà stagione e magari qualche dubbio può farlo venire anche ai tifosi del Milan. Noi avevamo in casa Brocchi, ottimo allenatore della nostra vera. Sì. Io ho chiesto un atto di coraggio e lui con coraggio mi ha detto di Sì. Aveva però, una tagliola sotto i coglioni, però no, insomma, non è vero. Questo non voglio vedere se diceva di no. Un'ultima cosa. No, ultima che poteva dare il traffico. Esattamente. Sì. Allora, Brocchi conosce bene lo stile del Milan. Milan, sì, sino da quando giocava fra perché le nostre così, giocava fra le nostre galline, tra i pulcini, esattamente. Allora, quindi è una scelta, sì, appropriata. Lo aiutiamo. Appropriata. 800 24 0024. Ma perché dobbiamo fare? Andiamo in traffico, dai. Poi dopo, quando ti trovi nel traffico, è sempre, sempre difficile. Tutti convocati. Tutti convocati. Minuti sono le due partite più importanti dell'anno. Hanno lo stesso livello di importanza, i punti in palio sono gli stessi, quindi sono due partite per noi determinanti per il secondo posto, che non varia la natura del nostro campionato. E a questo punto noi abbiamo fatto un campionato ottimo, un campionato straordinario. Ci piacerebbe farlo straordinario. Totti verticalmente, pallone strepitoso per il 3-0 di Pjanic. È un gol di Pjanic, ma lo stesso marcatore dice è tuo. Un gol così è tuo. L'abbraccio Pjanic, Nainggolan, Totti. Assist surreale del numero 10 della Roma. Abbiamo ripreso tanti punti, soprattutto qua il girone del ritorno. Non è finita, abbiamo l'ultima partita a Milano. La squadra gioca molto bene, si diverte e l'abbiamo ancora dimostrato oggi. Quindi adesso c'è bene da finire l'ultima partita. Speriamo che stasera un passo falso del Napoli. Sì, perché c'è ancora da risolvere anche la volata per il secondo posto. La vittoria della Roma contro il Chievo 3-0 porta la Roma avanti, mette pressione sul Napoli. Questa sera ore 20:45 Torino-Napoli. Bruno Giordano, ciao, buon pomeriggio. Ciao Bruno. Ciao, buona serata, buon pomeriggio. Mette ciao un po' di pressione, vedere la Roma lì davanti, 77 punti, 76 il Napoli, o no? Beh sì, ce l'hanno detto loro, in pratica ce l'ha detto Sarri quando aveva questa pressione, quando si parlava di Scudetto, che appunto loro giocavano dopo la Juventus vinceva e loro avevano questa pressione. Mi auguro che questa sera non sia così, perché se vuoi essere una grande squadra devi convivere anche con queste pressioni. Io credo che se il Napoli gioca da Napoli questa sera i tre punti, anche se sarà una partita abbastanza scorbutica, credo che li possa portare a casa. Pier, secondo te c'è questa pressione o Sarri l'avvertiva solo nel duello con la Juve? Forse quello con la Roma è un po' più a misura di Napoli. Ma la Roma è sicuramente più a misura di Napoli, è un duello ancora possibile, dove secondo me il Napoli è largamente favorito, nel senso il Napoli è padrone del suo destino. Stasera è una partita sicuramente con un'avversaria più che dignitosa fuori casa, ma insomma io penso che il Napoli sia favorito stasera. E poi Napoli-Frosinone, col Frosinone già retrocesso, cioè io penso che il Napoli abbia l'80% di possibilità di andare al secondo posto. Poi bisogna vedere che succede, però se il Napoli dovesse non vincere stasera col Torino e andare terza, a quel punto vorrebbe dire che non si è meritato il secondo posto. E lo dico di una squadra che mi è piaciuta da matti. E che anche se il Toro dell'ultimo mese e mezzo, 4 vittorie, 2 sconfitte, e una delle due sconfitte è quella che all'88esimo a Roma era una vittoria contro la Roma. Sì. Cioè è una squadra che sta bene, corre a gamba, a Belotti che segna. Io sì, non la vedo così momento scontata cruciale per il Napoli. Napoli sotto pressione. Anche il Napoli non meritava di perdere con la Roma, eh? No, certo Pier, però questa sera il Napoli è sotto pressione. C'è stato questo sorpasso virtuale finché vuoi. Pizza, però... birra e tutti davanti a Sky America per vedere la partita, ci mancherebbe altro, però voglio dirti non è semplicissima. No, non è semplicissimo, perché il Torino comunque vorrà onorare il finale di stagione. E perché il Torino in casa, esattamente come il Milan in casa per la Roma domenica prossima, è un'avversaria insidiosa. Però ecco, da qui a dirti che non è più improvvisamente la favorita, no, secondo me la favorita per il secondo posto è il Napoli. E ti ripeto, se non dovesse centrare a questo punto il piazzamento, beh, perché non sarebbe meritato. Alla fine la classifica ha sempre una sua logica, Poi è evidente che insomma, per buona parte della stagione il Napoli è stato in corsa per il titolo a testa alta con una squadra che faceva grande gioco, quindi questo è indiscutibile. Bruno, come lo valuti il campionato del Napoli? Parliamo prima di sapere se arriverà secondo o terzo, e quindi facciamo quelli che non valutano sul risultato. Ma sai, come piazzamento si dovesse piazzare secondo, un gran bel campionato, però io credo che quest'anno parecchie squadre hanno buttato via la possibilità di vincere il campionato, perché il primo mese e mezzo, due mesi di Juventus ti portavano per forza di cosa a ragionare proprio in ottica di campionato, cioè a vincerlo, no? Il piazzamento il secondo piuttosto che il terzo. È vero sì che c'è stata questa grandissima rincorsa da parte della Juventus, però credo che molto sia dovuto anche al fatto di un leggero calo del Napoli, grandi crolli da parte della Roma e dell'Inter. Certo, ripensare a quello che poteva essere c'è un grande rammarico. Tutto sommato, come diceva Pierre, il Napoli se l'è giocato con un grande calcio, un calcio spettacolare, ha un giocatore con 33 gol, però poi alla fine gli elogi sotto l'aspetto tecnico-tattico passano e rimangono i numeri. Mi auguro che possa almeno acciuffare all'ultimo respiro questo secondo posto, perché vorrebbe dire vanificare una stagione che potrebbe essere tutta soprattutto migliore. Per me, ecco, il grande rammarico rimane l'Europa League. Io penso che l'Europa League veramente in un momento diverso e con una mentalità diversa il Napoli la poteva portare avanti lungamente. Invece il Napoli è arrivato a metà febbraio, quando sono state le partite di Europa League, ancora in corsa per il titolo, ha fatto troppi ragionamenti, ha fatto troppo turnover nel primo match, è stato anche sfortunato sicuramente, ha trovato un'avversaria che poi è andata avanti fino alla semifinale, quindi per carità non è stato neanche fortunato, però io penso che alla fine della stagione il grande rammarico rimarrà quello. È stato un errore forse di mancanza di esperienza. È un errore la mentalità a noi italiani. Ma io credo che è tristissimo che sia così. Pierre, io credo più che l'esperienza sì può essere importante, ma credo proprio la campagna acquisti di dicembre-gennaio non sia stata all'altezza di una squadra che voleva lottare per un certo, perché lo certificano gli acquisti. Grassi e Company non hanno fatto neanche un minuto in questi 4-5 mesi. Grazie a Regini, zero minuti in 4 mesi. Regini, esatto, per cui credo che forse con un paio di acquisti più mirati si poteva andare avanti in campionato e, come hai detto tu giustamente, anche in Europa League. A proposito di perplessità, qualcuno riesce a spiegarmi perché una cosa che secondo me è scontata dopo questa stagione, cioè che Sarri rimanga e che gli venga riconosciuto l'ottimo lavoro fatto, sta diventando un problema? Ieri addirittura giornalisti che facevano le domande sul contratto Zittiti, Sarri zittito. Io non riesco a capire, Bruno, perché Napoli si debba poi invischiare in queste situazioni. Sì, infatti sarebbe stato molto più logico, ma già un mese fa, due mesi fa, rinnovare il contratto a un allenatore che ha conquistato Napoli con il suo modo di giocare, ha conquistato soprattutto i giocatori, e non era semplice dopo la stagione passata, dove c'erano dei malumori, dove non si ripartiva con la Champions. Qui questi dubbi portano disagio allo stesso tecnico e soprattutto a tutto l'ambiente. Pier, sì, tu hai capito perché De Laurentiis e Sarri non si trovano, e De Laurentiis non dice Sarri resta ma non resta e non posso più trattarlo come un allenatore che per i grandi club è la prima esperienza, ad esempio, esatto, togliendo quel vincolo annuale per cui, esatto, De Laurentiis può fare quello che vuole. Esatto, la forza di un allenatore in parte deriva anche dalla legittimazione che gli arriva dai club. Questi giocatori lo sanno benissimo, l'ambiente lo sa benissimo, i giornalisti lo sanno benissimo, c'è tutta una serie di persone che lo sanno benissimo. Quindi da questo punto di vista non ci sono grandi dubbi. Io sono d'accordissimo con voi, io penso che Sarri strameriti la riconferma, e penso francamente che sia abbastanza incredibile quello che è successo, abbastanza incredibile. Perché siamo ancora qui a parlarne. Ma anche incredibile lo silenzio stampa. Insomma, io voglio bene Nicola Lombardo, ma proprio gli voglio bene, perché è il capo stampa del Napoli, cioè, capisco benissimo che ci siano grandi pressioni, però io non l'ho capito questo silenzio stampa. Sinceramente faccio proprio fatica a capirlo. Significa, non lo so, per tante settimane. Significa nulla, Pierluigi, significa nulla, perché insomma, non ha portato nulla a Napoli. Il Napoli deve proiettare una grande immagine, il presidente Laurentiis deve essere soddisfatto, deve essere fiero, deve essere orgoglioso, deve gonfiare il petto, perché il suo lavoro, il lavoro di Sarri, il lavoro della squadra, il sforzo dei tifosi ha portato a una grande stagione. Ma che poi il Napoli deve continuare nel suo... Scusa Pierluigi, il Napoli deve soltanto proseguire nel suo percorso di crescita, ovviamente con Sarri e ovviamente con delle idee ben precise per proseguire nel suo percorso di crescita. Non può arretrare di un millimetro ed è ora anche di considerare, sarebbe ora anche di considerare il Napoli come... come una grande squadra europea, perché tutti dicono Higuain potrebbe andare al Paris Saint-Germain a giocarsi una maglia sta concorrenza. Sta a Napoli. Sì. Cioè, Napoli è una grande piazza, una grande piazza. Sei il re di Napoli, stai lì. Prima di salutarlo, grande squadra, che società importante. Non anche poi, ma che poi vive anche per Higuain, oltre che per la squadra. Mi fate proprio chiedere a Bruno Giordano, e poi lo saluto perché abbiamo la pubblicità, se questo Napoli sarebbe lo stesso senza l'anno prossimo, senza Higuain intendo. Sicuramente, deve trattenerlo a tutti i costi, oppure se si può pensare di venderlo e reinvestire. No, ma il problema del Napoli è che quando deve fare l'ultimo passo si riparte con un ciclo nuovo. Mi viene in mente Mazzarri, poi Benitez, adesso di fare l'ultimo passo sembra che ci debba essere un altro ciclo. Insomma, sembra assurdo, è inutile iniziare un ciclo se poi non lo vai a chiudere. Il fatto è troppo semplice dire che il Napoli senza Higuain non può essere lo stesso Napoli, un giocatore che fa 33 gol nel campionato italiano per forza di cose incide in maniera determinante in qualsiasi squadra. Sì, la soluzione è tenerlo. Grazie Bruno. Ciao Bruno. A voi, ciao a tutti. Grazie Bruno Giordano. Pier, prima di salutarti c'è Gianni da Verona. Sì. 800240024, intanto quarto gol del Barcellona contro l'Espagnol Rafinha. Prego Gianni. Sì, buonasera. Solo una considerazione, ho come l'impressione, se magari mi potete dare voi una spiegazione, che gli allenatori alcune volte vengano valutati un po' così per come sanno porsi a simpatie. Per esempio Montella, graditissimo, sicuramente bravo, non ha vinto nulla, ha avuto anche delle occasioni, è arrivato in semifinale di Coppa Italia, gettata via con la Juventus con un vantaggio considerevole dell'andata, eppure viene sempre considerato un buon allenatore. Mancini, faccio per dire, vince Scudetti, Premier, e c'è sempre comunque un punto di domanda. Mi viene in mente Zenga, che comunque ha una media molto più alta di Montella nelle prime partite di questa stagione, non ne ha parlato nessuno. Piero. Tutto qui. Allora guardi, su Montella che abbia fallito quest'anno non ci sono dubbi. Ci sono dubbi, Zenga ha una media migliore, era stato espulso con un corpo estraneo dalla società, dal pubblico, dagli stessi calciatori, e il miglioramento che Ferrero pensava di poter avere con Montella non è arrivato. Per quanto riguarda Mancini, ma non lo so, Mancini non mi sembra che goda di cattiva stampa, sinceramente. Mancini mi sembra che goda di buona stampa complessivamente, e ha vinto, e ha ragione lei quando dice che comunque gli allenatori che vincono qualcosa non sono molti. Quindi Mancini da questo punto di vista deve essere rispettato. Mi ricordo un dibattito abbastanza aspro con Toni Damascelli su questo tema. Detto questo, però, insomma, che sinceramente che si consideri Mancini come uno che negli ultimi anni ha fatto cose leggendarie, ecco, anche no. È una via di mezzo, ma è una via di mezzo di un buon allenatore, di un grande uomo di calcio che ha vinto qualcosa di importante, ma che quest'anno ha fatto, secondo me, ha fatto quello che doveva fare. Sì, sei meno. Ma no, io gli do anche 6,5, A Montella do 5, sicuramente. Certo, è bravo, l'ha dimostrato in passato e lo aspettiamo verso nuove occasioni, o magari già l'anno prossimo si rimarrà la Sampdoria con una campagna acquisti e con la possibilità di poter impostare una squadra. Quest'anno non l'ha impostata, e questo tipo di sport, cioè dubito Pier che resterà la Sampdoria, visto anche il tenore della sua polemica di oggi. Pier, ti saluto, a domani. Ciao Pier. Ciao Pier, ci fermiamo, poi parliamo di una notizia che oggi ha fatto discutere molto. Non è il calcio, è il ritorno di Alex Svazer. Io non so come la pensate voi. 800240024. Partita in bilico, spot per noi. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono líder del campeonato con 5 punti de ventaggio, e come abbiamo visto la Yamaha mi dà lo stesso tratto di... È stata colpa mia, perché ieri in qualifica ho sbagliato, ho fatto due errori che mi sono costati almeno la prima o la seconda fila. Poi anche oggi sono partito male, siamo arrivati un pochino in ritardo, però è andata bene perché abbiamo mantenuto la calma, sono riuscito comunque a fare una bella rimonta, dei bei sorpassi, e questi 20 punti valgono oro, perché ci siamo avvicinati alla vetta, siamo tutti tre lì vicini in 12 punti. Quindi è bella. Lo proposito di rimonte 3-2 del Valencia, con il Real Madrid, partita ancora aperta. Roberto Ungaro, ciao. Ciao, ciao, saluto a tutti. Ciao Roberto. Allora, abbiamo sentito Valentino Rossi, ciao, che ha rimontato al netto delle cadute di tutti gli altri, che sono finiti per terra dal settimo al secondo posto. Mondiale riaperto, la classifica dice Lorenzo 90 punti, Lorenzo che oggi ha vinto Le Mans, Marquez 85, Marquez che è finito per terra, poi si è rialzato, Rossi 78, Pedrosa 53, oggi il podio Lorenzo, Rossi e Vignales. La domanda è, ma partendo dalla prima o magari dalla seconda fila, Rossi avrebbe vinto oggi? No. Se la sarebbe giocata. Oggi però Lorenzo, guardando i suoi passaggi da inizio alla fine, è stato pauroso, ha girato sempre in 33, sporco. Valentino invece ha fatto parecchi 34, cioè oggi Lorenzo era veramente dura, poi lo si è visto subito dalla pole. Certo che Valentino, partendo dalla terza fila, ha avuto molte complicazioni, è rimasto dentro nel gruppo, ha perso del tempo e quindi l'ha visto scappare. Quello di oggi comunque era un Valentino efficace, il podio solo sarebbe... Era un Valentino Rossi giocato. Bello, diciamo la verità, bello. Sì, assolutamente, è ritornato in gioco per il campionato, quindi andiamo al Mugello nel migliore dei modi, perché quella potrebbe anche essere una pista amica. E Vignales, è vero che sono caduti in tanti, però grande risultato, ultime di mercato, Suzuki ha rilanciato 5 milioni addirittura, mentre l'offerta di Yamaha si ferma su 2,5-3, pare, mentre doveva andare in Yamaha, pare che rimanga in Suzuki a questo punto, cioè che vada, e quindi a questo punto il mercato, si diceva Pedrosa, invece è ancora un grosso punto di domanda, staremo a vedere. E Iannone, bisogna dirlo, Iannone non regge più la pressione, più Roberto, no, mi sembra che non regga più la pressione, non regga più... Anche se la caduta contemporanea, lui e Marquez, sì, senza vabbè, sfiorarsi, quella... è un giallo, è un mistero, è qualcosa che andrebbe raccontato e spiegato. Comunque pare che niente, la Michelin a un certo punto molla di colpo, non è prevedibile, non è come la Bridgestone. Io pensavo che ci sarebbero state veramente delle insurrezioni, invece mi hanno detto nel dopogara che i piloti non si sono lamentati più di tanto, lì comunque ha mollato la gomma, e non è che gli era dietro e quindi Marquez ha visto Dovizioso cadere e allora ha fatto un gesto, ha sporcato la traiettoria ed è caduto. Si vede bene dalla ripresa dall'alto, è caduto quasi prima Marquez, quindi lì è l'anteriore che molla. La Michelin ha ancora grossi problemi, i piloti non la sentono quando sono al limite come invece sentivano le Bridgestone. Senti Roberto, ma la Ducati andrà fino in fondo con un Iannone che è così, diciamo, agonisticamente fuori di testa? Costretta, il problema è che l'anno prossimo Iannone rischia di non avere la moto, perché non sono più tante le moto disponibili e quindi sarà difficile per lui, e questo è un problema. E pare Dovizioso essere confermato, non c'è ancora nessuna firma, però pare che sia questa la scelta di Ducati al fianco di Lorenzo. E però adesso secondo me si è così riaperto il campionato che bisogna rimanere concentrati sul risultato di quest'anno, perché è quanto mai un'incognita, un punto di domanda. Bello per noi, bella oggi comunque la gara, peccato che Lorenzo se ne sia andato, ma dietro ne abbiamo visti i sorpassi molto serrati, quindi speriamo solo che Michelin trovi il bandolo della matassa, perché il posteriore nuovo che ha portato più morbido pare che spinga sull'anteriore, ma questa è una giustifica che ha detto un po' Iannone alla sua caduta, gli altri non hanno trovato questo problema. Sapete, se il posteriore prende tanto, il problema è che spinge sull'anteriore e l'anteriore c'è il colpo. Sì. Michelin deve risolvere il problema, questo sì, è certo. Anche per non rendere un terno al lotto questa stagione entusiasmante, andrà anche verificata la reazione di Marquez, che oggi si è steso per la prima volta nel campionato. Grazie Roberto. A voi un saluto. A domani. Ciao. Roberto Ungaro. Allora, ve l'avevo promesso, ho visto che già state chiamando, parliamo di Alex Watzer. Alex Schwarzer, 8 anni dopo, torna a vincere nel mezzo la terribile storia che gli ha portato 3 anni e 9 mesi di squalifica, va a vincere alla grandissima. dimostrazione questa, visto il percorso che ha fatto, chiamiamolo di redenzione, che si può ottenere grande risultato anche senza passare per le stanze oscure del doping. 3.39, qualcosa meno o qualcosa di più, fa 21.47. In dove eravamo rimasti, si ferma qui. Ora eravamo rimasti in una situazione molto brutta. Sono contento oggi. Non è mai facile tornare alle gare dopo 4 anni. Ancora di più su questa distanza, ma sono in una buona condizione. Oggi sono andato bene bene. In questo paese sono uno dei pochi che ha chiesto scusa, no? Io non guardo più indietro, perché tanto quello che è successo non è che si può cambiare, nel bene e nel male. C'era un tifo incredibile oggi per me, ma quei pochi che mi criticano, io chiedo: chi è che ha perso di più col doping, io o voi? Mi sembra che ho perso più io, perché gli ultimi anni non sono stati proprio bellissimi. Alex Wazer, che oggi ha dominato la 50 km il mondiale a squadre a Roma, 3:39:00, vale il passaporto per Rio, dove andrà insieme a Sandro Donati, l'uomo che ha puntato su di lui. L'unico che oggi ci può giurare che è tutto vero, è tutto pulito. Sandro Donati, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. L'unico che ci può giurare che oggi è tutto vero, ti giro un messaggio, il primo che è arrivato, 349-238-6666, ma ne stanno arrivando. Schwarzer è una storia tipicamente all'italiana, comportati pure male, tanto poi comunque te la cavi. Sarà dura staccarsi questa etichetta, abbiamo sentito. Beh, Alex, ma tu cosa pensi? Scusi, mi permetta, questo è un giudizio proprio di una grande superficialità, di una persona che non conosce, che risolve tutto con battute così, da quattro soldi. Come ci arriva invece Alex al risultato di oggi? Ci arriva con il suo talento, che io ho cercato di valorizzare, perché chiaramente tutti si saranno resi conto che Svizzera è più forte che mai, nonostante i 31 anni. E quindi questo è il frutto della la combinazione del suo talento veramente enorme con un sistema di allenamento evidentemente molto innovativo, punto. Ma lei se lo aspettava così, subito, rimesso sì. In strada nella prima 50, forse quasi anche nell'unica occasione per andare a Rio? Le persone che diciamo meno distratte si ricorderanno che a settembre e a ottobre io gli ho fatto fare 2 test, perché mi ero reso conto che mi cresceva sotto le mani giorno per giorno, e quindi volevo dare proprio pubblicamente, per una questione di trasparenza, questa informazione di un talento ritrovato. E lui fece nel primo test la migliore prestazione mondiale dell'anno su 10 km, e poi nel secondo test su 20 km fece meglio del vincitore del campionato del mondo a Pechino. E quindi da allora è stata una ulteriore crescita, quindi un percorso forte, diciamo fin dall'inizio, di un campione che si poteva proprio evitare del tutto che scivolasse nel doping. Sarebbe bastato mettergli accanto delle persone attente, capaci, non negligenti, e non sarebbe successo. Ecco professore, sappiamo perfettamente però come Alex dovrà misurarsi, non solo con l'allenamento, non solo con la marcia, non solo con la fatica, ma anche contro tanti giudizi o pregiudizi, alcuni li abbiamo sentiti anche oggi. Sì, però vede, non vorrei neanche sopravvalutarli, perché lei sa che alcune testate molto grosse hanno fatto dei sondaggi ai quali hanno partecipato migliaia di persone, quello di Repubblica. 75% delle persone apprezzano e credono in questa avventura, 24% contro, quindi non vorrei che facessimo la stessa storia dei presunti compagni di squadra che non lo volevano, che erano tutti contro di lui. E poi io l'ho accompagnato in albergo in questi 2 giorni dove era concentrata la nazionale italiana, ma ce ne fosse stato uno di ragazzo della squadra italiana che si è rivoltato contro di lui o che gli ha detto delle frasi aggressive. Io ho visto gente che lo abbracciava, che gli chiedeva di allenarsi con lui, hanno fatto l'allenamento insieme. Ecco, quindi ci sono delle forzature ad arte, perché per chi non l'ha capito, questa storia è una storia fortemente innovativa che per alcuni aspetti destabilizza delle situazioni precedenti. Poi tra le parole forse che citavamo ci sono quelle, poi le leggiamo, quelle di talent australiano, oro a Londra nel 2012, oggi secondo, e che ha detto: la percezione che si ha da fuori è che abbia vinto ancora una volta uno che ha barato. Magari sono le parole dettate dalla delusione, io non so Sandro Donati che tipo di interpretazione si può dare. Uno che dice una cosa di questo genere è uno sciocco, perché prima si dovrebbe informare. Alex è stato controllato 14 volte dalla IAF, 3 volte dal CONI e 32 volte dall'ospedale pubblico San Giovanni, dal primario di ematologia del San Giovanni. Se poi Talent, fra un allenamento e l'altro, c'ha anche tempo magari per occuparsi un po' degli aspetti culturali e conosce qualche università o qualche istituto di ricerca che vuole mettere il naso nei dati di Alex o che vuole fare delle misurazioni o delle cose, sono a sua disposizione, certo non di lui, che probabilmente questo genere di conoscenze le ignora, ma di un istituto di sua fiducia, naturalmente anche se non è di Talent è la stessa cosa, chiunque può entrare in questa storia. E verificare che è tutto vero. Posso chiederle 30 secondi, c'è il traffico, io poi volevo l'ultima riflessione su questa che è una storia meravigliosa che divide, ma secondo me ci deve fare contenti, ci deve portare a Rio tifando in maniera convinta, Alex Schwarzer sperando nella convinzione che davvero non ci sia una seconda caduta, ma che Alex, come tanti altri, meriti la seconda chance e se la sia meritata con 3 anni e 9 mesi di lontananza dalle gare ufficiali. C'è il traffico, poi torniamo con Sandro Donati. Tutti convocati. Tutti convocati. Per finire il discorso su Alex Schwarzer, arrivano anche messaggi che dicono ha pagato e ha chiesto scusa chi altri lo ha fatto in Italia. La mia riflessione è che oggi, che è tornato ed è tornato bene, lo abbiamo visto, è forse ancora il più forte, oggi non si deve scaricare sulle sue spalle la pressione a Rio di dover vincere a tutti i costi. Io non so Sandro Donati come la pensa. Guardi, intanto mi faccio dire una cosa che stavo per dire prima che terminasse, diciamo, questa prima parte del collegamento. Si scordino tutti che Alex possa avere una seconda ricaduta, perché garantisco io, non accadrà mai. E inoltre vorrei dire che Schwarzer non ha soltanto eliminato il doping, ha eliminato tutte quelle porcherie che i medici della federazione e i medici del CONI consentivano, e le numero, antiasmatici per un'asma che non ha mai avuto, camera ipobarica utilizzata sistematicamente e nessuno interveniva, supplementazioni di ferro non necessarie, altri integratori, tutto eliminato. Alex Schwarzer si alimenta e si allena. Ma non sarà mica che il problema è un processo e una metodologia di allenamento che sfugge alla comprensione media e che quando io la espliciterò farà un pochino vergognare semplicemente per l'ignoranza quelli che... Cioè, che si può essere atleti biologici, fra virgolette biologici, nel senso... Sì, guardi, qui si va verso il doping per l'ignoranza che si taglia a fette, perché manca lo studio approfondito, manca la capacità di personalizzare l'allenamento, manca la capacità di adattarlo e modificarlo giorno per giorno a seconda delle esigenze, manca la capacità di creare nuove metodologie di allenamento, capisce? Che è un po' diversa la questione. Ora, senza voler mettere, professore, senza voler mettere troppa pressione non necessaria, ma se l'immagina alla luce di tutto questo, che valore potrebbe avere un oro di Schwarzer alle Olimpiadi? Sì, io spero di poter dare questo regalo all'Italia e agli appassionati e lo potranno vivere con la sicurezza assoluta. Certo che mi rendo conto, ma Alex è assolutamente in grado. Oggi ha rifilato 3 minuti e mezzo a questo australiano che ha saputo reagire soltanto dicendo una sciocchezza, che adesso esamineremo pure se ci sono le possibilità pratiche di denunciarlo, perché è un cretino uno che dice una cosa di questo genere. E sul rischio eventualmente di una pressione a vincere, diciamo la verità, quattro anni fa abbiamo scoperto anche che c'era un elemento psicologico in tutto questo, cioè Schwarzer era l'uomo che doveva vincere, doveva salvare la nostra spedizione per l'atletica. Sì. Allora ritorniamo un po' al discorso di prima. Prima c'erano le pressioni e le richieste di risultato, ma non c'era la capacità di qualificazione, di supportarlo nell'allenamento, in maniera che l'allenamento fosse qualificato e in grado di poter arrivare, portarlo a quei livelli. Adesso la situazione è diversa, ma per il pubblico è una sorpresa la vittoria di oggi, ma non lo è certo per me e per Alex, perché noi l'abbiamo costruita giorno per giorno in allenamenti sempre in crescita, di grande qualità, e oggi quando Alex ha staccato questo campione olimpico e tutti gli altri, e io gli dicevo ancora di stare calmo ed aspettare, e lui mi ha detto: prof, ma io qui sono 4 anni che aspetto. No, facile. Perché il ritmo che seguivano questi qua è il ritmo che noi teniamo in allenamento ogni settimana regolarmente. Ma di che cosa stiamo a parlare? Speriamo. Grazie professore. Buongiorno. Grazie. Buonasera. Grazie Sandro Donati, l'uomo che ha rimesso in piedi Alex Varzer. Intanto finale della Liga. Finisce qui il campionato dell'Atletico Madrid, battuto 2-1 dal Levante, gol di Pepito Rossi al 90esimo. La classifica: Barcellona 88, Real Madrid 87, il Barcellona ha battuto 5-0 l'Espagnol, il Real Madrid 3-2 il Valencia, Atletico Madrid 85, ma non potrà in nessun caso superare il Barcellona. Pier Augusto Staggi, un minuto per la terza tappa del giro. Vai Pier. Ciao. Ciao. Vittoria di Marcel Kittel, come ci attendevamo, il bis strameritato, perché nettamente il più forte di tutti, e grazie agli abbuoni Marcel Kittel ha vestito anche la maglia rosa. Quindi salutiamo, il Giro d'Italia saluta l'Olanda, perdendo i mulini a vento, le tighe, ma perdendo anche la maglia rosa, perché sostanzialmente la maglia rosa era Tom Dumoulin, il beniamino di casa. Domani mattina volo charter, si torna tutti in Italia, destinazione Catanzaro, dove martedì si riprenderà il cammino e riprenderà, anzi inizierà a tutti gli effetti, il Giro d'Italia italiano con la Catanzaro a Praia Mare, e con una maglia nuova, una maglia rosa nuova, che è quella di Marcel Kittel, il bello del Giro d'Italia, perché a tutti gli effetti è un fotomodello che pedala veloce, veloce, veloce, e lascia estasiate le ragazze del Giro. Sì, e lascia di sale tutti gli altri, quelli che sono costretti a vederlo da dietro quando si imbocca alla retta finale. Grazie Piera, domani, che approfondiremo un po' di più il tema su queste prime tre giornate del Giro. Noi ci fermiamo, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Roberta Frisani, che si sono alternate in regia, tutti convocati domani dopo il GR delle 14. Noi invece siamo in onda domenica alle 17, dalle 17 alle 19 per i verdetti del campionato di Serie A. Saluto anche Aldo Merco. Sì. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Ciao Valentino, aspetta, l'ultimissima cosa, il messaggio agli appassionati in vista del Mugello. Un messaggio, ci vediamo al Mugello fra 2 settimane.